monti, ma ero, cioè, ero monti, poi qua, qua nei nelle sì, colline e all'interno del comune, perché esatto, altrimenti sarebbe stato... Anche se devo dire che ci sono delle zone all'interno del comune qua sui colli che se ti sbagli un attimo ed esci dal sentiero, sì, sei, ci a sono Pianoro, dei rapaci, ah, che sembra di essere sulle Dolomiti, vabbè, ho capito. Mentre invece Piero e Jacek si sono sposati oggi, cioè tu dimmi chi è che si sposa di lunedì, che incredibile. Non lo so, io non ho una gran pratica di questo di tipo matrimoni, che... giusto. Cioè no, vabbè, il minimo sindacale. Il minimo sindacale. Sì. E niente, allora volevamo fargli gli auguri, fare loro gli auguri. Auguriamo. Mentre invece, naturalmente, la notizia principale di oggi qual è? Qual è? Sono come la notizia principale che io non so, non ho preparato niente. Non sappiamo cosa dire. Ecco, questa è la notizia principale di oggi. No, in realtà non è vero. La notizia principale di oggi è che è uscito un nuovo, una nuova canzone di Jenny Owens. No, non ci posso credere. Beh, per un attimo ho pensato che fosse Paul McCartney, quindi va, no, va già anche bene, dai. Invece no, è Jenny Owens, come al solito. La canzone si chiama Little Bird e l'ascoltiamo immediatissimamente, Cox. Sì, prendiamo tempo intanto. Esatto. Little Bird, little bird, won't you sing me a song? I may not know all the words, but I'll try to sing along. Little bird, my little bird, let them talk, that's what they do. But no amount of saying something ever made it true. Head up, eyes wide, all will be alright. Hold tight, say go. Hurts bad, I know. Take those hollow bones, use them well, use them right. Let them carry you through the darkness of the night. Head up, eyes wide, all will be alright. Hold tight, stay, don't hurt back. Little bird, won't you sing to me a song? I may not know all the words, but I'll try to sing along. Hai capito? Bene, io mi sono anche distratta. Ti stavi addormentando? Sì, non ho minimamente approfittato del tempo che mi hai concesso per raccimolare un minimo di informazioni, quindi sono esattamente messa come prima. Se vuoi rimandare lo stacchetto... No, ma figuriamoci, io nel frattempo invece sto ricevendo dei grandi ding ding di Facebook, poi non ho capito perché, appunto, Pietro e Jacek si sono sposati, ma Pietro è lì che messaggia tutto lo stanzone, non ho capito perché, non lo so, io non sono in luna di miele, ma evidentemente non ancora, oppure lo sono già ma sono già così annoiati che lui può chattare, ma no. Non credo, no. Così. Non diciamo così. Dicevo, oggi siamo in diretta, per cui 333 180 94 94 precipitate a telefonarci, scriveteci che abbiamo un sacco, no, telefonarci di tempo. Non si può perché non possiamo rispondere, può. Però potete scriverci per dediche e richieste. In realtà ho anche, mi avete rubato l'accendino, ah no, questo lo scrivevano oggi alle 15:55 no, è perché in realtà è successa un'altra cosa abbastanza particolare oggi, che Giffo ci ha mandato un pezzo, no, cioè fantastico. Vuole sentire una canzone. Ah sì? E noi cosa facciamo? Vabbè, indovina. Non possiamo certo negarglielo. Cosa facciamo? Gliela facciamo sentire subito? Facciamo prima questa cosa qua. Dimmi, guarda, se c'è un tema dietro a questa canzone. Si chiama I miei primi sei mesi da rockstar. Non so che tema ci potrebbe essere. È autobiografica. Penso che sia, cioè, più che autobiografica, è il contrario di un incubo, no? Cioè, un incubo al contrario è tipo un succubo. Gli incubi e i succubi. Penso che lui se lo sogni di fare sei mesi da rockstar. Ah, e dunque, in quel senso, sì. Ho capito. Stavo ragionando in negativo. Ma invece tu che novità hai dal mondo dell'arte? No, io assolutamente nulla. Niente. Tu mi hai non ho guardato. L'unica cosa che posso dire è che dovremmo avere appena finito la settimana di arte fiera. Ah, giusto, è vero. Non se ne è detto assolutamente niente, quindi magari se vogliamo provare a dare un'occhiatina a questa famosa playlist, io non sono ancora andata. Io sono andato a vedere qualcosa, però adesso sai che non mi ricordo più che cosa, mi hai preso in contropiede. Vabbè, intanto diciamo che cos'è questo playlist. Che cos'è questa playlist di arte fiera? Ma allora non ho approfondito, quindi non sono proprio preparati. Sono un po' come quegli studenti che quando vengono interrogati a fine quadrimestre vanno un po', poi guardano, sbirciano sul banco del compagno che ha aperto il libro, eccetera. Io tra l'altro ho aperto il libro sul tavolo, ma è un libro che non c'entra niente perché parla di astronomia, quindi non è il aiuta. Catalogo di arte fiera 2021. No, non so nemmeno sai perché, se c'è. No, non ci sarà mai perché Arte Fiera 2021 non ci sarà. Però invece è un'occasione persa, perché questo forse era l'anno in cui il catalogo serviva a qualcosa. Si poteva puntare tutto sul catalogo. Tutto sul catalogo. Cavoli, sai che sei un genio effettivamente. Sono un genio. Cioè, secondo me nessuna fiera ha fatto il catalogo quest'anno. Perché magari invece si poteva fare un bellissimo libro d'artista riunendo tutti gli... Adesso poi metto il copyright su questa idea, così se... Non credo che si possa. No. Conoscendo un minimo le leggi sul copyright, non credo che questo sia diciamo possibile. Che se Simone Menegoi è in ascolto, infatti, sicuramente è lì con un esatto. Cuffione spaventoso. Sappia che quando farà questa cosa, di cui sicuramente si approprierà dell'idea, deve citare Chiara Verde. Ok, ecco. No, stavo guardando, ho aperto la pagina della playlist che comunque è finita, cioè la playlist era dal 21 al 24, ovvero sì. Giorni si in cui possono ci ancora essere. Riguardare però no, certo, assolutamente. Cioè, perché le playlist hanno questo di bello. Dice che è un'iniziativa digitale basata sull'idea di selezione a cura di punto. Generalmente la parola playlist indica una sequenza di brani musicali come quella che ci ha dato, cioè come il brano che ci ha dato Giffo, che però per adesso non abbiamo ancora sentito, è compilata da un DJ o un musicista. Per estensione, scrivono quelli di Arte Fiera, l'abbiamo usata per indicare un formato molto popolare nella cultura contemporanea, quella della lista dei preferiti, in cui ciò che attrae è tanto il contenuto proposto quanto chi lo propone. Cioè, si cercano dei trendsetter che propongano. Poi il fatto che Art Forum lo faccia da 40 anni, questo non conta, però no, presente che Art Forum fa le classifiche, la top 10, la cosa che mi piace tantissimo della top 10 di Art Forum è che chiamano gli artisti e gli artisti mettono qualunque cosa, tipo le mutande di mia nonna, la mostra di Richard Serra e poi un film sconosciuto, una poesia di potremmo Montale. Procurarci alcune di queste playlist certo. Di Art Forum. No, sono fantastiche. La cosa interessante della playlist è che scopri delle cose, cioè scopri gente di cui non hai mai sentito parlare. Sì, in queste playlist di Art Forum, certo. Quelle forse di Arte Fiera e le nostrane, la declinazione italiana, dai, va là, sì. Su Flash Art invece delle classifiche è un po' un déjà vu. Ah, certo, no, chiaro. Io della playlist adesso mi sono ricordato che cosa ho ascoltato, e ho ascoltato un tributo a Germano Celant a cura di Andrea Vigliani la settimana scorsa. Devo dire che è stato interessante. Sì. Io mi sono guardata un po' invece le playlist di Correini che aveva selezionato. Sì, cioè sono alcuni autori e anche non autori, collezionisti. Amici che consigliano una serie di letture, e mi ero andata a guardare che cosa consigliavano. Non mi ricordo quasi niente, se non che forse Romeo Castellucci consigliava Locus Solus, che è un libro di Raymond Roussel che è stato molto importante per le avanguardie e che io non sentivo citare dai tempi dell'Accademia. E ho pensato, accidenti, lo vado a comprare, quindi mi sono fatta influenzare alla fine è funzionato, sì. E noi invece ci ascoltiamo Giovanni Truppi, che presumo sia un amico di Giffo, non lo so, oppure magari no, è una rockstar di cui io ignoro tipo, tutto, un tipo un po' intruppato un tipo un po' intruppato come Giffo del resto, esatto. Che salutiamo e baciamo virtualmente, e ci ascoltiamo I miei primi sei mesi da rockstar, senti e qua vai. A confondere la cocaina con la triptamina, ci potevi rimanere, coglione, che se tiri e poi non senti il gusto a cui sei abituato, non è detto che era troppo tagliata. Forse era proprio un'altra droga, stronzo. E quella povera ragazza che pensava che dormivi, all'improvviso si ritrova, che non capisce se sei morto o se respiri ancora. E sì, io so, lo dici sempre, che parlare di droga da non addetti ai lavori è come parlare di Marte senza andare su Marte. È come parlare di morte senza essere morti. Sai che non è stato male stare tutti in ospedale e ritrovarsi insieme. Tu eri vivo ma sembravi come un cucciolo di cane, e noi eravamo pronti. Ogni amico un giorno a settimana per venire a toglierti la bava a casa di tuo padre o a lanciarti una pallina rossa di gomma la mattina in cucina. E sì, lo so che l'importante era levarsi di dosso un'espressione da grande. Ci proviamo a farla tutti quanti, fino da bambini, fino a che non ci riesce bene e ci chiamano uomini. Quanto sembra meno magica la vita fuori dagli schemi, addosso a chi comincia ad invecchiare, a rovinarsi o a perdere, tu perdi proprio adesso che ti volevo parlare, che stavo male, non sapevo proprio come fare. E sì, lo so, non serve a niente, ognuno combatte il suo fantasma per sempre. A volte siamo insieme a qualcuno che ci guarda le spalle, altre volte siamo soli nel buio, nudi sotto le stelle. Sì, lo so, la vita è solo un sogno. Quando l'ho capito c'eri tu. lo so che se lo scopri un giorno sei lo stesso, ma non sei più tu. Sì, lo so, la vita è solo un sogno. Io volevo solo dirti che se tu esci da dentro il mio sogno e non ritorni più. Per un poco sarò molto giù. Che romanticone che è il nostro Giffo da Vicenza, veramente. Vedi, dietro questa scorta da Oscar Moroni batte un cuore di Giffo. Però non è male, come parlare di Marte senza essere andati su Marte, come parlare di morte senza essere morti. Mm. Mi ha colpito questa strofa. Sì, no, è vero. Devo dire che l'arrangiamento lascia un po' a desiderare, però, però per il resto non era neanche il poi testo, cioè, non era il diavolo, non era neanche il diavolo, come direbbe, il diavolo, come avrebbe detto mio nonno. No, e così è così. Le immagini che non mancano mai sulle riviste patinate di astronomia e sui libri fotografici non sono né di stelle né di galassie, ma di nebulose, stelle esplose che irradiano ad alta velocità energia nella regione circostante. Le conseguenze sono spettacolari. Hai capito? Mm. Ecco. No, io stavo intanto tentavo di alzare le nostre voci perché dalla regia ci stanno trattenendo, per cui ci stanno dicendo che siamo al minimo. No, che non dobbiamo gracchiare troppo, per cui sì, è così. No, c'è una discrepanza notevole tra le parole e la musica, ma è perché sono io al mixer. Certo, no, io non aiuto. Invece mi ha scritto lo sposo novello che voleva sentire Samson di Regina Spector, forse si dice Regina. E adesso ho cliccato su YouTube e adesso ce l'andiamo a cercare. L'ho già trovato. Mi chiedo come si sentirà. Ecco, questo per esempio non doveva partire. Ah no, questo no, è la musica di sottofondo. Anzi, finalmente ci azzecchi con un sottofondo che non è di Sergio Leone, che andava esatto. Bene anche per le nebulose. Hai ragione, è che però va un po' come gli pare la musica di sottofondo. Fatto sta che andiamo a sentire come si sente su YouTube, da YouTube, questo Samson di Regina Spector. Ah, cioè lo facciamo così, con questo sistema sofisticato. Sofisticatissimo. Ah, però aspetta. Che mi è partito in Regina Spector, hai detto? Sì, cioè questo è proprio Spector con la K. Esatto. È così. Sembra un po' Jenny Owens Young. È vero. È nelle tue corde, caro. Anche lui un altro super romanticone. Accidenti. E così l'abbiamo bloccato noi. No, non ci credo. Sai cosa? Sai perché l'ha bloccato? No. Perché mi ha chiesto di registrarmi su YouTube, altrimenti forse non me lo fa sentire. Vediamo se riparte. Forse gli ho detto di no. E adesso possiamo. Però è abbastanza inquietante, questa cosa. Abbastanza. No, sì. Perché devi sapere che qua non abbiamo. Ma perché non sanno che siamo un coccio spaziale, sì, sennò no, avrebbero infatti sicuramente sottoscritto un contratto gratuito. Avrebbero messo della gran pubblicità subito. Sweetest downfall. when we first met. Samson came to my bed, told me that my hair was red, told me I was beautiful, came into my bed. I cut his hair myself one night, a pair of doll scissors in the yellow light, and he told me that I'd done all right. Slice of Wonder Bread and went right back to bed. We couldn't bring the columns down, we couldn't destroy a single one. And the history books forgot about us, and the Bible didn't mention us, not even once. You are my sweetheart. Cox spaziale. Goditi un momento. Alô, alô, marciano, aqui quem fala é da terra. Meu nome é Janes Oliveira, sou artista visual do Brasil. Aqui está 29 graus, moro em Fortaleza, no Ceará. Hoje é 14 de fevereiro, dia de São Valentino. Hoje é sexta-feira. Por favor, mande artes. Vamos trocar muitas artes intergalácticas. I due minuti di Nandi hanno una durata percepita variabile. Il mare è vita, la vastità, la vastità, la vastità, la vastità, la vastità. Come possiamo vivere senza mare? Noi che andavamo a fumare in sala giochi nel seminterrato del Bar Pineta. Il nostro mare italico. Il nostro mare è l'Adriatico granitico ed il Tirreno anche un po' meno. Ottenere le agognate ferie per scaraventarsi sulla A14 ascoltando all'improvviso il duetto Fedez Gianna Nannini su Isoradio, che è poi così che succedono gli incidenti, maledicendo per l'eternità quelli che stanno in mezzo, poi stando in mezzo, poi essendo sfanalati dai tir che spostano bancali di tortellini industriali e pesti senza aglio attraverso le province della nostra bella Italia. E infine, mentre si tenta il sorpasso di un tir che tenta il sorpasso, essendo sfanalati da meravigliose Audi che per fanali hanno gli occhi del demonio, finché non ci si ferma tutti in coda nei pressi di Faenza dandosi appuntamento all'altezza della puzza. Già finito? È già finito, purtroppo, ahimè. Sì, purtroppo sì, ma io intanto mi sono attrezzata e ho trovato tutta la playlist di Romeo Castellucci. Non so perché mi sono tanto fissata proprio tra tutti quanti quelli che suggerivano con Castellucci, anche di nostalgico dei tempi dell'Accademia. Ah, sì. E quindi lui consiglia a Abby Warburg Il rituale del serpente. Poi è una playlist dei libri, giusto? Sì. Sì. Sì, infatti cioè, oggi scusa l'ignoranza, no, ma sì, poteva essere un film o un CD. Abby Warburg, no, CD non credo, film difficile, però sì, magari poteva già essere. Okay. No, comunque è un libro, sono tutti libri, perché stasera io sono un po' così, libresca. Mm-hmm. Quod libet Alois Riegel, non so chi è, quindi Riegel, spero di averlo pronunciato bene, ma non ne sono proprio del tutto sicura. Da uno dei maggiori esponenti della scuola di Vienna, l'opera che ha gettato le basi per un approccio moderno allo studio delle arti applicate. Quindi leggiamolo. Gabriel Guercio, L'arte non evolve, L'universo immobile di Gino De Dominicis. Questo mi potrebbe anche piacere. Creazione artistica e ricerca dell'immortalità sono al centro del saggio su Gino De Dominicis, che diventa un'indagine sul mistero della creazione ex nihilo. E io che oggi ho portato l'universo come opera d'arte mi ci trovo a mio agio. Ma tu hai fatto latino anche? In che senso? Non lo so, cosa hai fatto lo scientifico, sì. Tu da sì, giovane? Sì, ho fatto latino, ma adesso cosa ecco. C'entrava? Ah, no, perché niente, ho detto ex nihilo. Sì, sapevo pronunciare ex nihilo, mentre non so pronunciare Alois Riegel, perché ho studiato inglese e quindi non mi trovo a mio agio con quest'altro che non so bene se sia tedesco, sì. Raymond Roussel, Locus Solus, dicevo prima, un romanzo unico nella storia della letteratura universale, dove il protagonista è il linguaggio stesso con la sua magia, tra fascino arcaico e allucinata follia. Tra l'altro molto bella l'edizione, mi ha ispirato parecchio e forse la compro proprio per quello. Ed ultimo, questo proprio è impronunciabile, Suranyan Ganguly, Stan Breckage Interviews. 9 delle più importanti interviste al regista sperimentale Stan Breckage, che discute. Ecco, lui lo conosco. Su di lui ci orientiamo, però non okay. Conosco quello che ha scritto invece il libro, vabbè. Del suo lavoro e alcuni dei suoi film iconici. Questa è la playlist di Romeo Castellucci. Adesso vado a cercare un po' delle ma altre. Ma io invece stavo pensando, ma nel blog di domani, che naturalmente come al solito è www.blogspot.com, cosa ci mettiamo? coxospaziale.coxospaziale.blogspot.com. Come lo titoliamo questa puntata? Microcoxo. Microcoxo. Microcoxo, perché io sto facendo i micro appunti. Ah, vedi? Vedi? Ah, fantastico. Cioè, dopo lo fotografiamo. Lo fotografiamo quindi. E mettiamo microcoxo, perché è l'universo e noi come nebulosa. Perché secondo ragionando sulla fase della vita di una stella, tu senti che il sistema dell'arte è più nella fase nebulosa, fase protostella, fase di stabilità, cioè il Sole, sistema solare, la stella a pieno titolo, o fase finale che sta per evolvere in una super gigante rossa o in una supernova o eventualmente in un buco nero? Ma in realtà è una domanda pertinente che a questo punto potrebbe far partire l'angolo della menzione. E ti dico perché. Perché quello che succede questa settimana è veramente vero praticamente, però il nostro amico Luca Rossi, che tu conosci, insiste a proporre contenuti per cui mercoledì alle 18 intervista a Lorenzo Fiaschi, che per chi non lo sapesse è uno dei fondatori della Galleria Continua di San Gimignano, che per chi non lo sapesse è una delle gallerie d'arte più importanti, dall'artista contemporaneo medio. Esatto, cioè sicuramente è una delle gallerie più importanti di arte contemporanea in Italia. E dunque il titolo del talk, che sono dei piccoli talk da mezz'ora, è il mondo dell'arte di domani. Per cui questa è una domanda che effettivamente che potremmo fare a Lorenzo Fiaschi. Esatto, e si potrebbe direttamente chiedere a lui. Naturalmente da domani su www.coxospaziale.blogspot.com troverete il link alla pagina Facebook di Luca Rossi Lab, dove appunto troverete scoprirete come fare ad ascoltare questo fantastico talk in diretta. Poi, non contento, il giorno seguente, che sarebbe giovedì 28, Luca Rossi fa un altro talk dove che magari presento io, perché dovresti, devo presentarlo io per forza. Posso dirti il titolo o lo sai tu? No, il titolo me lo devi dire tu, perché io ho la memoria cortissima. Si intitola La crisi Covid in Italia e all'estero, come sta reagendo il sistema dell'arte, punto interrogativo. Con Stefano Pasquini W. Esatto, che non è sì, quello dall'altra parte, ma è una sua variante. Una telematica. Variante avariata che però parla di arte contemporanea. Di Covid e arte contemporanea. Esatto. A proposito di Covid e arte contemporanea, tu hai messo su questo bellissimo inserto, che non diciamo cos- perché non si può dire che cosa sono questi inserti, però questo inserto un po' mi ricordava la variante brasiliana. Che adesso c'è la variante brasiliana del Covid. Sì, ma io non ho capito di che inserto stai parlando. Quello che è andato subito dopo la pubblicità e che secondo me certo. Tu vuoi mantenere ammantato di un'aura di mistero. Un'aura di misterissimo. E quindi io non posso esplicitare più di tanto di che tipo di contenuto si trattasse, però era chiaramente un contenuto brasilofono. Sì, effettivamente sì, stavolta parlavamo in portoghese. Esatto, sembra brasiliano e portoghese. Certo. E niente, quindi sempre aggiornatissimi, voglio dire. L'ascoltatore attento dovrebbe notare tutte queste cose che non sono frutto del caso, ma sono frutto, assolutamente, sono frutto del caos. Esatto. Assolutamente. Tutti a Berlino a festeggiare, sì. E così, insomma. E poi detto questo, appunto, io non sapevo che Luca Rossi avrebbe intitolato questo nostro incontro La crisi del Covid in Italia e all'estero, come sta reagendo il sistema dell'arte, cioè come se io lo potessi sapere. No? Non lo so. Cioè, però, tu vabbè, sei, parleremo, cioè, sei uno dei principali promotori delle iniziative come dire di reazione contro non lo so, Luca Rossi è animato dallo stesso tipo di coerenza che permea Coxo Spaziale, esatto, quindi abbiamo questo questo fuoco sacro di sbinariamento, chiamiamolo è un metodo questo che in realtà ha una sua tradizione artistica anche abbastanza consolidata, perché sai che i dadaisti per comporre una poesia, fare un componimento poetico, estraevano a caso dei bigliettini. Quindi che cosa si fa? Si lancia sul tavolo un elenco di temi da una parte, un elenco di ospiti dall'altra e poi si pesca chi viene. Tu ti è capitato il Covid? No, ma poi appunto io sapendo che il giorno prima c'è Lorenzo Fiaschi che ci racconta il mondo dell'arte di domani, in realtà sono tranquillissimo perché devo solo ricordarmi di ascoltare cosa dice Lorenzo Fiaschi e poi ripeterlo il giorno successivo, perché voglio dire io sto lì, cioè io sto a casa mia, non è che sono Lorenzo Fiaschi che va in giro per il mondo e ci può dire che cosa, anche se ho i miei contatti che mi stanno un po' raccontando cosa succede perlomeno a New York e a Londra, però, perché ci sono reazioni, ecco, potresti darci qualche anticipazione, le reazioni, flash, anticipiamo l'intervento di W. Pasquini Stefano di giovedì 28 con Luca Rossi nel Luca Rossi Lab. Ci sono strategie diverse nei diversi paesi per contrastare la crisi Covid all'interno del sistema dell'arte? Direi strategie diverse, forse è una parola grossa. Quello che in realtà è importante da sapere è che ai piani alti non frega niente a nessuno. Questo da sempre, in tutte le circostanze. No, però è importante. Tant'è vero da che sapere. Sai che ci sono i complottisti che addirittura sostengono che i piani alti sono quelli che provocano queste crisi proprio allo scopo di intrattenimento. Lo diceva anche Pasolini in Salò. Esatto. Comunque, chi sono io da poter dire queste cose? Non lo so, non sei certo. Non sono certo. Non sei certo una supernova. Okay. She's gonna die trying with her heart ablaze and a fighting song. Not me, I'll be a dandelion. Ooh, give a gust of wind and I'm gone, gone. Cause I don't wanna be somebody to anybody, no. Di Margaret Glaspie suonata dal vivo. Ma devo dire che c'è una certa coerenza nelle scelte musicali, a parte la scelta di Gifo che era un po' forse fuori. No, infatti sembra che abbiamo fatto tutta la puntata per Pietro e Jacek a giudicare dal suo amore per Regina Spektor, che devo dire che piace molto anche a me. Che poi Regina Spektor ha anche un nome intermedio che è Ilichnina. Ah sì? Ilichnina, una cosa del genere. Ok. Sì. Hai capito? Hai capito cosa si scopre sul web. Dunque, andando ciao, avanti. Siamo le Inky Fingers e facciamo le cose con le fingers. Hai capito? Scusatemi voi. No, io ero qua che stavo andando a continuare la playlist di Arte Fiera ed ero andata a fare un po' di incursioni tra i talk, perché ci sono questi talk, conversazioni si chiama. Tu ne hai vista una, quindi puoi dirci come funziona tecnicamente, non dirci i contenuti, ma questa di Challenge che cos'è? Si entra e si vede una conferenza dove parlano Luca Cerizza, Eva Fabris e Italo Rota, esatto, con moderatore di Andrea Vigliani, cioè un po' come un Maurizio Costanzo show della, sì, cioè della fiera. È un incontro con un Zoom in cui vedi questi schermini e poi ogni tanto parla uno e poi parla l'altro. Devo dire che l'intervento di Eva Fabris è stato molto interessante. Io lei non la conoscevo comunque era un tributo veramente abbastanza caloroso, perché poverino Celant, oltre a essere un curatore importantissimo, comunque c'era molta gente che gli voleva bene. Certo. Non so se questa musica possa c'entrare con questo. Sì, c'entra, dai. C'è questa idea da tramonto dopo un mezzogiorno di fuoco è abbastanza celantiana, esatto, anche pensando un po' alle reazioni della stampa. Comunque sta tromba non scherza niente. No, no. Chissà se Farnedi è capace di suonare sta tromba così, sicuro. È possibile. È un maestro. E bene, comunque, invece tra gli altri talk c'è The New Normal, una nuova normalità. Fa un po' paura. The New Normal mi fa venire in mente queste cose tipo Normal is the New Strange, esatto, o qualcosa del genere. Cristiano Seganfreddo, Stefano Boeri, Emanuele Coccia. Chissà cosa si saranno detti, ma sono riascoltabili? Penso di sì, riguardabili, c'è scritto guarda, sì, certo. Io se clicco, adesso provo in diretta, vediamo cosa se succede. Se clicchi, fra l'altro lo ascoltiamo anche, perché questa musica che stiamo sentendo in realtà viene dal tuo computer. Ah, quindi se io parto si sovrappone. Esatto. Adesso parto, facciamo questo esperimento acustico. Prova a partire. Si sente un click, click, click, ma... E basta. Adesso è... Io no, non sento, secondo me non... Sì, certo. Sì, una collaborazione. Cioè, sì. Sono molto più bassi del nostro Morricone, fortunatamente, però esatto. Un pochino si sente che borbotta. Qualcosa si sente, ma quindi esatto. Questo potrebbe permetterci di mandare in onda anche delle piccole pastiglie... Sì. Cioè potrei inserirmi adesso che mi hai rivelato questo piccolo segretuccio tecnico, io potrei fare delle incursioni sonore a tua insaputa. No, a mia insaputa no, perché cioè in realtà perché sì, tutto passa attraverso attraverso un mixer che io gestisco, però c'è da dire che comunque io tendenzialmente la musica di sottofondo la tengo un po' in sottofondo, cioè non la alzo così, no? A parte che questo è bassissimo, sì. Cioè l'ho messa al massimo ed è bassissimo. Ed è bassissimo ugualmente. Però, va bene, insomma, sarà delle micro incursioni, sì, d'altronde esatto. Micro cox. Infatti, è fatto così. Sta che comunque sono le 19:50 e noi non sappiamo cosa dire. Non abbiamo detto niente. Abbiamo già detto all'inizio e basta. Io e non, niente, non la radiazione interagisce con nubi di gas e polvere, generando un arcobaleno di colori e forme che fanno pensare ad ogni sorta di eventi cosmici e misteriosi. Nubi oscure di polvere interposte ne accrescono il fascino, creando contorni netti e cupi che consentono alla nostra immaginazione di vedervi ciò che vuole. Ti ho lasciato senza parole. Mi hai lasciato senza parole, sì. Perché non hai immaginazione, quindi non si è creata l'immagine, ma... Perché sotto quella scorza da duro millennials hai un cuore d'oro, scrive Marfia in questa... È un omaggio a Giffo sempre. Certo, naturalmente. Sì. E questo è sempre Coxo Spaziale e noi stavolta abbastanza seriamente possiamo suonare questo jingle. Non sappiamo cosa dire. Forse in una bottom 10 delle puntate con meno cose da dire delle 346 puntate di Coxo, questa si aggiudica un buon fanalino di coda. Un buon fanalino di coda, no? Del resto di solito quando abbiamo un minimo, ma veramente un minimo di contenuti, dobbiamo parlare velocissimi perché non riusciamo a stare dentro ai 57 minuti di questa puntata, cioè della puntata classica, ma invece oggi addirittura avevamo due pubblicità da 30 secondi e basta eccetera, e questo ci ha permesso di poter dilungare allungare il brodo perché il brodo quando tu lo hai consumato, cioè tu fai il brodo, te ne rimane un po' e vuoi fare un'altra infornata di tortellini, che non è un'infornata ma insomma una spadellata, quello che è, non ti basta, perché se lo assorbono tutto e quindi ci mette dell'altra acqua e la lunghi. Ingolato. Questo l'ho preso da fuori d'onda, che non c'è più, è incredibile, cioè è finita anche quella stagione lì. Accidenti. Come possibile? Cioè è venuto a Coxo e dopodiché è sì, finito. No, cioè, io non volevo dirlo, però come? Però portiamo questa fortuna qui. No, ci mancherebbe. C'è gente potremmo che invece, cominciare a strutturare bene delle... C'è gente che invece è venuta a Coxo e dopo da lì è partita con una carriera incredibile. Come Cattelan alla Neon, che ha fatto la mostra alla Neon e poi è diventato Cattelan. Esattamente. E adesso fa le pubblicità per le generali. Tra l'altro Gino Giannuì non l'abbiamo ancora avuto qua. Accidenti. Abbiamo avuto quasi tutti gli altri, anche Cattelan non l'abbiamo ancora avuto. Questo è un ma po'... lui forse è un po' difficile da avere. Però oggi Gino Giannuiffi ce la potremmo fare. Magari secondo me come ospite silente lo chiamiamo una sera insieme a Giancarlo Nurese. Esatto. Secondo me viene bene questa puntata. E tutti e due, cioè in realtà potrebbero essere dietro di noi che nessuno lo saprebbe. Ma se noi diciamo che alle nostre spalle c'è Gino Giannuiffi, ma chi ci potrebbe smentire a parte Gino Giannuiffi stesso? Esatto. Che però che l'idea di Gino Giannuzzi è Gino Giannuzzi stesso. Esatto. No? L'avere alle spalle Gino Giannuzzi, no, vabbè. Ok, detto questo, appunto, sono le 19:54 e potremmo anche salutarci. Tu vuoi così addirittura anticipare? No, ma dai. Abbiamo due minuti. Abbiamo dai due minuti per dire un'altra cosina su questa povera arte fiera. Dai, cioè io mi sento quasi. Pur no, io mi sento orfano senza arte fiera quest'anno. Non lo so, io sì, un po' sì, mi sento orfana, nonostante che poi alla fine che cosa ci cambia a noi il passaggio attraverso la fiera. Beh, devo dire l'arte fiera dell'anno scorso me la ricordo bene, perché c'erano questi montenegroni spritz e io e la Giada Pellicari ce ne siamo venuti tipo 7 ed eravamo completamente, dopo ci siamo goduti la fiera come non mai. Allora, è stato però se devo ricordarmi la fiera dell'anno scorso, è stata una fiera un po' della premonizione. C'era la nostra cara amica Patrizia Giambi che è venuta, lei è qui a Coxo, intanto ti domando. No, Patrizia Giambi mi manca. Perché stavo pensando che anche lei andrebbe coinvolta. Patrizia Giambi è un'artista di tuttissimo rispetto. Infatti. Che siamo onorati di conoscere, di poter citare all'interno del programma. E lei l'anno scorso si è recata in fiera, unica tra tutti, con la mascherina. In treno si era messa la mascherina. Non c'era ancora il Covid, certo. C'era già. Ma l'abbiamo saputo solo dopo. Esatto. Quindi, ma facevamo finta che non ci fosse. Finta che non ci fosse, o comunque non ne avevamo contezza. Quindi lei, invece, previdente, si mise la mascherina e venne investita da un'orda di sfottò per questo. Ho capito. E quindi ricordava adesso, guardate ma un po'. Ma lei, infatti, ha sempre avuto questo problema di essere troppo avanti. È molto avanti. Lei è molto avanti. Molto avanti. Sì. Ricordiamo quando noi facevamo quella rubrica dei consigli per il collezionista, per il piccolo collezionista di oggi che sarà il grande collezionista di domani, ecco, un Giambi nella collezione secondo me insieme al Norese non può mancare. Ah, certo, assolutamente. Segnatevi questo nome, Patrizia Giambi. Andatevela a cercare e compratela immediatamente. Esatto. Parola di Coxo Spaziale. Invece io mi ricordo che c'era questo attraversamento veramente iperbolico, cioè io l'avevo apprezzata dal punto di vista scenografico perché non si arrivava mai. Non si arrivava mai. Avevano cambiato l'ingresso e dovevi falcare. Percorrere. Esatto. Quindi io mi sono stupita che nessuno avesse firmato l'ingresso ad Arte Fiera come evento performativo, che mi sembrava una cosa effettivamente vero. Che poteva ma essere. Ma tu hai preso la navetta per arrivare all'ingresso? No, l'ho presa per tornare. No, me la sono fatta tutta a piedi e con grandissimo entusiasmo, e mi ha ricordato i tempi in cui veleggiavo da un aeroporto all'altro perché lavoravo in questa multinazionale ed ero una multinational star. Wow. E poi la mia vita è cambiata, adesso invece non si viaggia proprio più nessuno, e quindi secondo me quello è stato una parabola dei non luoghi interpretata brillantemente da Simone Menegoi e Gloria Bartoli. Certo. E questa era la 346esima puntata di Coxo Spaziale. Io ero Chiara Verde. E io ero W. Pasquini Stefano. E ci vediamo, ci risentiamo lunedì prossimo, sempre dal vivo. Siamo lunedì prossimo. Ci sarai tu? Ci potrei anche essere. Ok, cioè a meno che non ti passi la voglia di fare, la mia co-conduttrice, direi che ci... Direi che fino alla fine dei colori dell'iride dovrei restare in sella. Fantastico, molto bene. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. La sigla naturalmente è dedicata a Pietro e Jacek che si sono sposati oggi. Auguri Pietro e Jacek. Esatto, mi raccomando, fate a Modino, a Berlino. Non solo a Berlino.